pensione, cioè un pensionato che però non aveva l'età ancora per poter insomma fare qualcosa, evidentemente ci aiutava così. Mi diceva come sempre, perché poi era insomma, mi chiamava per nome, diceva signor Caro, non è che qui mi dava il tu, insomma, mi diceva quando avete il ferro mettetemelo da parte, che passo io, ve lo ritiro, vi faccio pulizia e tutto. Ho detto guardi, se lei veramente mi dà la parola, io qualcosa glielo do ogni tanto, a meno che lei non vuole che gliela mettiamo da parte quando c'è un bel sì sì facciamo così, facciamo, se no mi costa passare tutti i giorni, ritirare un pezzo eccetera, allora facciamo fare così. Quando facevamo noi facevamo chiaro, impianto per impianto, poi impianto di Vidalba, mettilo lì che già la portiamo via in settimana, mettilo lì che già. Lui quando passava, questo signore, faceva tutto, ma puliva, c'aveva la scopa, tutto, raccoglieva tutto, viti, bulloni, tutto, c'aveva i secchi, tu puliva tutto e lo portava via, capito? In nero però, in nero, perché infatti io dicevo stia attento, guarda che se lo fermano, è un casino, non dica che l'ha ritirato qua, negli impianti, insomma, le dicevo anche, già lo sapeva lui. No, non si preoccupi, non è mai successo niente. E sai quante volte veniva con un boccione di vino, forme di formaggio, addirittura una volta a Pasqua, me lo ricordo come oggi, mi ha portato un agnelletto, guardi, non glielo dico più, o lei la smette di farmi regali e di portare roba, o altrimenti io non do più niente, capito? Perché io la sto aiutando perché ha necessità, io grazie a Dio non ne ho necessità, lavoro e non mi manca niente. Lei stia tranquillo e sereno, prenda il materiale e lo porti dove deve portare, si prende i suoi soldi, poi se vuole passare andare a prendere il suo caffè, non si preoccupi, ma pur di dare alle zingari, io aiutavo queste persone, Gianni. Anche io, Claudio, anche io dove lavoravo aiutavo un signore che di Porto Torre ci veniva e ci caricava tutto il ferro, glielo metteva in un angolo, lui sapeva già dove andare e aveva il mio permesso di prenderlo e si caricava carri di vecchi senza ruote, tutte queste cose qua. Però per quanto riguarda gli zingari, una volta in via delle Vigne nel negozio avevamo il motore esterno dei frigoriferi che praticamente sbucava fuori dalla parte del cortile, però c'era questo rompiballe che ogni volta che passavo io mi diceva che metteva l'avvocato, che questi motori erano troppo rumorosi. Io l'ho detto al principale e il principale ha detto ascolta, dimmi che ce ne esca da quel paese. Vabbè, comunque ha preso e ha fatto cambiare il motore, ne ha messo uno più silenzioso e mi ha detto già quel motore vai e lo porti al capannone, siccome era periodo di Natale io al capannone non ce la facevo andare perché c'erano troppe consegne e quindi cosa ho fatto? L'ho coperto bene, messo sulla pedana, coperto con il nylon e l'ho messo dietro dove c'era il cancello, chiuso tutto quanto. Beh, lo sai che è sparito il motore, me l'ha cercato il principale e mi ha detto ma il motore dove l'hai messo? L'avevo messo lì dietro perché non ce l'ho fatta andare, che il periodo di Natale lo sai come ci sono un po' di consegne. E mi ha detto allora mettiti le mani in tasca perché quel motore adesso ci serviva per stentino e non ce l'abbiamo. E qualcuno se l'ha fregato e se l'hanno preso loro sicuramente, li zingari. Siete la sua popolare, siete la sua dicendo che passavano sempre tutti i santi giorni a controllare. Detto, stai attento che se ti trovo te ne taglio le gambe con la mola, io non entrare dentro, non essere matto, tu stai attento che se io ti trovo dentro l'impianto te ne taglio le gambe con la mola, capito? Stai attento. Infatti giravano molto alla larga, però quando vedevano questo signore poverino caricando il ferro lo guardavano male, io avevo paura che lo fermassero, magari ne bigliavano il dutto, perché questo era un signore anziano molto bravo, insomma, del paese, hai capito? E c'è sempre quel timore, c'è sempre quella paura. Tu immaginati che quest'uomo, perché a Vidalba non c'è né una badesima, è un cane morto. E io quindi l'ho detto, lei va alla Gosmina. Giasmino, vada a nome mio, perché noi le portiamo sempre, le portavamo sempre, vada a nome mio, non le dica però dove, vada a nome mio, già capisce lui, e stia tranquillo, vada lì che glielo pagano bene. E così faceva poverino, quindi da Vidalba si varava quasi a tutta la panoramica, saliva alla Budibudi e andava da Giasmino a scaricare, capito? Riprendi Giulio, un altro passaggio, poi vi lascio perché mi sono girato e ho visto che è già ora. E infatti io ti volevo avvisare adesso che sono già le 7:30, per cui è arrivato il momento del rancio per Filippo. Va bene, sì, ma è così. Ma io mi ricordo, Gianni, quando io ancora facevo l'elettricista, ho lavorato per un anno da Pino Mu a Santa Maria, no? Lì arrivavano i lampadari, insomma tutti gli imballaggi di qualsiasi elettrodomestico eccetera, no? Anche dei mobili, perché vendeva di tutto Pino Mu, e c'era questo autista di Pino Mu che prima faceva l'autista di taxi, faceva, poi si aveva fatto un negozio di bombole lì di fronte alla chiesa di Piazza Sant'Antonio, aveva fatto questo qui, e lui lavorava perché nel negozio c'era altra gente di famiglia, e lui lavorava con noi da Pino Mu, faceva l'autista a Pino Mu, la faceva tutte le mattine mancabilmente, sia d'inverno che d'estate, di imballaggio, legno eccetera, prendeva, lo tagliava a pezzi e faceva il fuoco, perché da Pino Mu c'era un caminetto, c'era in questo negozio, no? Un grande caminetto, e tutti i chiodi che rimanevano poi nella cenere, lui prendeva la cenere, la colava e si prendeva tutti i chiodi, tutti, e si riportava poi a casa. A casa lui all'interno aveva una specie di magazzino, io ci sono stato, perché abitava allora lì in via La Marmola, abitava allora in quel periodo di casa, e aveva tutto il deposito del ferro vecchio, che poi lui sistematicamente e periodicamente si vendeva, e faceva i soldi sia dal negozio delle bombole che dal ferro vecchio, Gianni. Ciao Manu Marco, ce n'è tanta gente che fa così. Anche, come si chiama? Adesso non mi viene il nome, comunque raccoglie tutto il rame e poi se lo vende, si fa anche 1800 euro, 2000 euro all'anno. Eh sì, ecco, questo magari si paga la benzina e magari anche l'assicurazione della macchina. E va bene, dai. Ok, vai, Claudio mi sembra che sta preparando per Filippo, per cui probabilmente non so se puoi riprendere qua. Sì, sì, sì, beh, doverosamente riprendo, mi preparo e vi saluto. Se ci siete ci sentiamo dopo, che una ventina di minuti mi devo assentare, ok? Grazie per il consiglio momentaneamente, saluto anche chi è in ascolto. E semmai se ci siete riprendiamo dopo. Comunque c'è gente, Gianni, che campa con quello, è attento. Non all'anno, ma io conosco persone che lavorano, perché si alzano alle 5 e 6 del mattino, vanno nelle campagne a ritirare ferro, vanno nei capannoni, capito? Camminano, si fanno lo stipendio, gente che non ha lavoro si fa lo stipendio. Io conosco una persona che grazie a Dio sta campando la famiglia grazie a questa sua invenzione, però lavora, non ha orario, lui esce la mattina alle 7, rientra anche la sera alle 7, le 7, le 8 di sera, si mangia un panino e viaggia forte, fa tutti i paesi in cerca, va anche al Ghero, Portoghese, Stintino, tutti quei paesi, di tutto, vasi, di tutto. E non solo ritira ferro, ritira anche materassi che porta all'ecocentro, fa di tutto, guadagna soldi. Va bene, dai, un saluto circolare a tutte e due, anche a quelli che sono in ascolto, io mi assento e ci sentiamo dopo. Vai Gianni. Sì, allora, ciao Claudio, ma Filippo sta mangiando bene, sì. Perché che teso non sta mangiando pochissimo. Ah, grazie a Dio sì, già l'appetito a Filippo non l'è mai mancato. Forse il giorno che è stato male, ma poi ha mangiato la sera abbastanza bene. Diciamo che è un po' giù, il caldo lo sta abbattendo tantissimo, tant'è vero che sta facendo è già una settimana e più, forse oggi 8 giorni, una cura di Betatal. Perché il mio, a Filippo le piace molto il secco, la verità, Carmine ne mangia poca, la mangia una volta alla settimana solo, e quindi il veterinario mi ha detto di darle il Betatal, capito? Quindi la mattina presto, verso le, dopo che sale da fare i bisogni, le do il Betatal con un busterino, un pochettino di prosciutto, qualcosa del genere. Però grazie a Dio sta bene, diciamo che sta bene, i soliti dolorini, cioè il mio ha un problema, a questo problema appunto della tipo nemmeno il disco, diciamo, dai, quindi non può saltare, non può fare più niente, però l'appetito verrà a Marasucchi, però è caldo, mi già vedrai che si riprende, perché anche lui con quelle giornate calde non stava molto bene, era sempre coricato, sempre moscio e mangiava poco, la verità, mangiava poco, non molto, invece adesso si è ripreso e la sua ciotola se la mangia. Sì, si è il caso, anche i canarini quest'anno facevano le uova e non facevano fide, il primo fido me l'ha fatto oggi, perché come sta rinfrescando, si stanno mettendo le uova in coppa, mi ha fatto il primo uccellino oggi. È normale per tutti, Gianni, è normale per tutti. E non è per tutti, poi soprattutto i nostri cani che sono dei morossi, soffrono molto il caldo e quindi calano molto, non ti preoccupare, vedrai che già riprende a mangiare. No, io vi saluto, cambio per Giulio, se ci siete a dopo, altrimenti vi auguro buona cena e tutto quello che desiderate. Vai Giulio. Ok, ciao qua, grazie per la chiacchierata, allora ci sentiamo domani eventualmente, dai. Così almeno facciamo altre due chiacchiere. Sì, vai Gianni per i saluti. Sì, ciao, ci sentiamo, dai. Buona continuazione, adesso vedo tra poco anche io. Va bene, a dopo, ciao ciao. Ok, ciao, ciao, qua di nuovo. Sì, ma è così già, anche gli animali purtroppo sono come noi, io già, ci sono dei momenti che stanno bene, addirittura benissimo, e altri momenti che magari possono avere qualche problemino, sono come noi, non c'è differenza, guarda, la natura dell'animale è né più né meno come quella dell'uomo, io già. Capo, adesso te la mando il piccioncino che è nato. Ok, però ce l'ho giù, il telefono ce l'ho giù, lo devo guardare dopo, dai. Mandamelo pure, ma dopo lo guardo. Bene, bene. Che ora ci sono fatte? Deve 8-20 circa. Deve 8-20 circa. Per cui siamo vicini alla cena. Va bene, dai. Oggi chi è entrato in frequenza qui in questo canale? Io, tu, Claudio, Marco, Gianfranco e per un attimo anche Luca, per un po', dai, non per un attimo, per un po' anche Luca del Monte. Bene, bene, bene, riprendi. E adesso riprendono i soliti, dai, come sempre, i soliti almeno stiamo tranquilli. Sì, beh certo, almeno scambiamo due chiacchiere così va bene, non è un problema, ci accontentiamo insomma, ecco. Interessante che non ci siano quel rompimento di scatole, quell'animale che anche ieri un po' di colpi importanti già l'ha dato, ma quello deve essere proprio fuori di testa. Chissà chi è quello, a saperlo. E che segnale aveva? Basso o alto era segnale? No, e qui arrivava 9:10 arrivava il segnale, poi chi era non lo so, perché non lo posso sapere. La metteva ad intermittenza, lo metteva, tipo così. Sì, si deve e su Focaccio. No, ma non è vero già, la gente pensa che sia quello, quello non ne ha baracchino, non ne ha assolutamente, baracchino quello non ne ha, ma non da adesso, già da anni. Quel cartolaio lì non ne ha di baracchino, la gente è convinta che sia lui perché ormai ci aveva fatto quel nome lì, però non ne ha più, ma non da adesso, ma da anni, lui addirittura, il padre è sempre a letto, non si può nemmeno alzare, ma già da qualche anno. l'altro, quello grosso, è sempre in giro come gli zingari, lo vedo sempre io quando salgo verso il Monte Rosello, nella zona dove sono io, lì lui passa immancabilmente, passa sempre, tutti i santissimi giorni. L'altro fratello non è così, perché non gli interessava assolutamente, l'altro Mario si chiama, l'altro, quello piccolino, diciamo, piccolino di fisicamente, voglio dire. Non ne hanno, baracchino, non ne hanno più, ma da anni, Gianni, è inutile andare a colpare quello, perché non sono loro, nella maniera più assoluta. Ascolta, c'era gente che abitava vicino e che mi ha detto che ce l'aveva il baracchino, gli è rimasto, qualche baracchino gli è rimasto. E li metteva alla portata e gli arrivava a 9,60 a Catena, non so. Non era lui, Gianni, era qualche altra persona, ma non era lui, ti posso garantire che non era lui. Perché il baracchino non ce l'hanno più da anni, ripeto, da anni. Guarda che io lo vedevo tutti i santissimi giorni, già da anni, non è, e poi non ha antenna, non ha niente, non ne ha. Tranquillo, ti posso garantire che non ne hanno già, non sono loro, era qualche altra persona lì nella zona. Boh, e chi lo sa, chi può essere. La zona Isabaro comunque è... perché la portata era un bel forte da me, arrivava a 9,30, capito? La zona, o hanno usato lineare o era chissà la zona. Cosa usassero non lo so, che il segnale era forte, certo che era forte, lo so che era forte, però ti posso garantire che non sono loro. E poi anche se fossero, ammettiamo che fossero state loro, lui, quelli lì non ti arriverebbero mai 9,30, mai, nella maniera più assoluta, perché avevano un antennino, io l'avevo visto con l'antennino che avevano allora, in quel periodo, ma baracchino non ne hanno più, ti posso assicurare che baracchino non ne hanno più, ma da anni, non da adesso, da anni. Boh, vabbè, non lo so, non so se ci sia Antonio all'ascolto. Antonio, se ci sei, batti un colpo. E Antonio adesso abita in via, in Corso Vicolo, in quella zona lì abita adesso. Già lo so, ci sentiamo ogni giorno. Sì, lo so, sei andato a abitare con la ragazza. E appunto, chi mi dice che invece non era quello che una volta aveva il baracchino? Ti ricordi che in quel palazzo dove abitava lì proprio, del rimpetto al CERT, lì c'era uno che prima aveva il baracchino lì, forse che sia uno di quelli, oppure in zona c'è qualche altro, cioè, ce ne sono in zona che magari ascoltano e non trasmettono già. Tranquillo che non è lui, ora sia che sia qualcuno da Sant'Orsola, guarda, io ne sono più che sicuro, non è più lui, non è lui, nella maniera più assoluta, prima sì, anni fa, che poi non faceva nemmeno sondaggi con la gente, poi a me lui non mi è mai arrivato a 9+10, a me mi arrivava Santiago 6, 5, 6, una cosa del genere, questo mi arriva anche Santiago 9+10, per cui non è lui, nella maniera più assoluta. E vabbè, interessante che non imbocchiamo in più, da voi che sia uno o l'altro non ci interessa, interessante che ci lasciano tranquilli. Ah beh, quello sì, vediamo bene, quello non è sì. Non lo so, caspita, quando mai non sarebbe stato meglio se magari entrasse così e parlasse così insieme a noi, boh, invece no, va a fare lo spiritoso, vado a fare un macco, vado a fare un macco, boh. Arrivare 9.30 da te è facile, Gianni, dalla te doccia è facile, però non certamente lui, nella maniera più assoluta, lui manca pensavi, a parte che non lo sapevano nemmeno usare, e poi io lo prendevo così a discorso, e beh, il baracchino sempre ce l'ha, già un anno che ce l'ho più, si era bruciato, avevamo sbagliato attaccando, si era bruciato, non lo potevo aggiustare, ma se no, non abbiamo usato, ce l'abbiamo che buttato, non l'abbiamo più. Io lo so già che è così, perché a Vicenzo, io ho qualche volta lo chiamavo anche per aiutarmi, per dire che sono io a caricare qualcosa di pesante, e se stavo passando per strada magari mi vedeva scaricando il motocarro, addirittura dall'angolo dove abitava lui, dove era lui, mi vedeva che c'era il motocarro carico, subito arrivava, ha detto, oh, scendo giù, le do una mano, ha detto, no, lascia prendere il bicchiere, cioè, no, le do una mano, dai, e magari poi le regalavo, che so io, i soldi per una birra, capito? Però ti posso garantire, intanto è una bravissima persona, pinghiloso quanto voi, non ci sono dubbi, è una bravissima persona quel ragazzo lì, e anche l'altro fratello, l'altro invece fuori, abita in paese, abita da anni, no, da adesso da anni, Angelo l'altro si chiama, ma quello non si è più visto a Sassari da anni, prima era in carcere lì dove c'è la cosa, non mi ricordo mai, quel paese di Sardegna, poi ha finito e dunque si era sposato e abita in paese. Non sono loro, nella maniera più assoluta è inutile andare a continuare a incolpare lui, perché non sono loro. Vabbè, comunque, chi esso sia, sempre è una rottura quando mettono la portata. Io stavo già per fare un esposto per la portata, ti che dire, l'ho già scritto, io non ci metto molto. Stavo già per fare una risposta a Cagliari. Sapendo chi è, ci sarebbe sì da farglielo, ci sarebbe veramente da farglielo. Solo che c'è questo anche da dire, noi non abbiamo nessuna protezione o Gianni, soprattutto adesso che non c'è più questa specie di tassa, chiamiamola così, dunque non abbiamo nessuna protezione, anche facendo un esposto io dico che non gli fanno niente, non le fanno, perché intanto ti chiedono chi è, chi non è, e tu non puoi fare il nome così a caso, ci mancherebbe altro, perché uno facendo il nome a caso, se poi risulta falso, c'è da essere denunciati penalmente, non si può fare un nome così, devi essere veramente sicuro, ma chi è che te lo assicura una cosa del genere? No, tu gli chiedi di fare un controllo in quella zona, punto, gli chiedi di fare dei controlli perché ti stanno mettendo la portata, non ti fanno parlare, ma io penso che non siamo tutelati, chi l'ha detto questo? L'organo competente c'è sempre, non è che loro hanno quei doveri di controllare, di fare, quindi l'organo competente esiste sempre. No Gianni, non siamo noi tutelati, non si muovono per quelle cose lì assolutamente, si muovono solo esclusivamente quando succede, ad esempio, o come è successo per Natalino, ecco, c'è una denuncia da parte di un'altra persona che riceve male, allora si possono anche muovere, però solo perché è stato disturbato un CB, non si muovono, stai tranquillo, che non si prendono la briga di muoversi nella maniera più assoluta, lascia perdere. Ecco, noi, le altre persone, se siamo noi a recare il disturbo, sono tutelati, ma noi non siamo assolutamente tutelati. Se, e poi nell'ultimo protocollo che c'era stato della Gazzetta Ufficiale, c'era addirittura, annunciavo qualcosa del genere, che non avevamo nessuna protezione, c'era qualcosa di specificato anche già. Bene, bene. Era meglio pagare il 12 euro, anche se in effetti anche prima non è che facessero molto, comunque. Era meglio pagare le 12 euro, essere diciamo tutelati. Tanto le 12 euro non penso che pesino a nessuno. Oh, figurati, era più fastidio di andare a fare magari mezz'ora di fila o un'ora di fila alle poste, secondo in quale ufficio postale andava, perché ma i 12 euro lo facevano né più povero né più ricco nessuno, per cui non era quello. Tu pensi, vedi che guarda che l'hanno tolto proprio perché non fa nessun danno, a parte il fatto che ormai i CB ce ne sono rimasti pochissimo, non qui, no, ma in tutta Italia sono pochi. Io non so a che ammontare di cifra poteva essere quando tutti magari facevano la tassa, pagavano la tassa. abbastanza, a parte il fatto che sicuramente sono più che convinto almeno l'80% delle persone che hanno usato il baracchino non ne hanno mai pagato di tassa. Già, figurati, non sono tutti come te o come me o come altri che conosco, ma la maggior parte della gente non ne pagava già. No, vabbè, cosa sono 12 euro? Io ho tutte le ricevute da quando abbiamo riniziato con Claudio e con Natalino e da quando fino adesso ho tutte le ricevute, anche quest'anno l'ho pagato tutto, sempre. Poi è uscita la legge dopo che io l'avevo già pagato. Certo, io immancabilmente tutti gli anni verso la fine di gennaio facevo il bollettino e pagavo la tassa. Dunque, ma questo da 48 anni e mezzo a questa parte, compreso quest'anno, per cui abbiamo un cassetto di ricevute. Tra l'altro qui alcuni anni fa, saranno 4 anni fa, qua sono venuti a controllare se avevo pagato la tassa. Io non c'ero qui a casa, ero al lavoro, sono venuti in due questi poliziotti postali, no? E mia moglie ha detto, guardi, sono cose di mio marito, io non lo so dove lui tiene le ricevute, però sicuramente ha pagato, perché paga sempre, le ha sempre pagate queste cose. Allora ascolti, faccia una cosa, domani ritorniamo, si faccia lasciare la ricevuta da suo marito perché la vogliamo vedere. E così è stato, mia moglie appena sono rientrato me l'ha detto, guarda, lasciami la ricevuta della tassa del baracchino perché sono venuti a controllare se era stata pagata. Io gli ho lasciato, di domani quando li ha visti salire nelle scale, mia moglie dalla finestra li ha visti, ha aperto la porta e aveva già la ricevuta in mano, aveva fatto già, non si sono nemmeno avvicinati a così, sì, va bene così signora, tutto a posto, grazie e ci scusi, figurati, si sono anche scusati, ho già. Poi, ma non è tranquillo, non c'è problema. Diciamo che i pirati ci sono sempre stati e sempre ci saranno. E adesso vabbè, quelli che non pagavano la tassa adesso sono contenti perché sono lo stesso in regola anche se non pagano la tassa. Prima magari non stavano tanto tranquilli. Certo, ma era anche da stupidi, dai, farsi vedere per 12 euro e per 15 prima. Ma era da stupido rischiare, magari da un controllo si potevano fare la multa per non aver pagato 12 euro, proprio che nemmeno un caffè al giorno praticamente, per tutto l'anno, ti puoi immaginare, dai, era da stupidi, da cretini e da miserabili, non andare a fare o a pagare una tassa da 12 euro, era una cosa assurda, uno non li farebbe nessun danno a nessuno, nemmeno la persona più povera di questo mondo, per cui non vedo la ragione perché la gente magari è solo convinto che l'80% delle persone, ma non solo in Sardegna ma in tutta Italia, non ne ha mai pagato, sicuro. Non saranno tantissime, sarà qualcuno penso, perché ti ripeto, rischiare per 12 euro non ne vale la pena. Penso che non siano in tanti che non l'abbiano fatto, ci sarà qualcuno magari che ha ripreso, che ancora non è in regola, però quasi tutti hanno pagato, dai, quasi tutti. Almeno quelli che frequentano qua, penso che tutti quanti paghino, quelli che frequentano su Canale 10, penso che siano tutti in regola. Pagate buffi! Tu pensa che, a parte il fatto che da stupido, cioè era da stupido, adesso ormai non c'è più quella tassa, però rischiare per 12 euro al mese, il che significa, come ho detto poc'anzi, un caffè al giorno, per tutto l'anno, non avrebbe senso, secondo me. Cioè un caffè al mese, però, non al giorno, al mese, un caffè al mese, una cosa assurda. Purtroppo la gente non la pensa tutti alla stessa maniera e per cui andava bene per lui, se per loro andava bene, per me non andava bene. Io non me la sentivo di pagare, di rischiare per 12 euro, ma per 12 e per 100, se mi avessero chiesto 100 euro l'anno in tasse, io avrei pagato 100 euro, che problema vi sono? Premesso che era una tassa assurda, sia ben chiaro, questo bisogna dirlo, era una tassa assurda, perché a noi lo Stato non ci dà niente di niente. Per cui la radio è la nostra, l'antenna è la nostra, il microfono è la nostra, e non abbiamo noi niente da consumare che sia roba dello Stato, è tutta roba nostra, per cui era una tassa anche assurda. Chi era davanti all'amico? Ciao Giulio, buonasera, e buonasera anche a Gianni, non so chi ci sia qua. Ciao, io e Gianni, basta, dai, riprendi. Perché per il televisore non è la nostra, non è nostra, eppure dobbiamo pagare la tassa, la stessa cosa. E molta gente prima la televisione non ne pagava le tasse. Ma quello è diverso già, perché lo Stato ci dà un programma, c'è un impianto di ripetitori, eccetera, eccetera. Per noi ripetitori ci sono, no, non c'è niente, l'antenna di chi è? L'abbiamo comprata noi, la radio l'abbiamo comprata noi, il microfono è roba nostra, lo smitter, il rosmetro è tutta roba nostra. Dunque lo Stato non ci ha messo niente a disposizione, per cui era una tassa assurda. Ma meno male che l'ho tolta, ma a me non me ne frega niente, se la dovesse anche rimettere, chi se ne frega. Vai Franco. Ciao Giulio, salutato, buonasera. Come mai gli hanno tolta la tassa CD? Sì, non c'è più bisogno di pagare tasse e nemmeno di fare la domanda, niente, non si deve fare più niente. Per cui siamo esenti da queste cose qua. Da questo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale da un mesetto a questa parte più o meno, dai. E dunque non c'è problema, vai. Esatto, io l'avevo già pagata comunque, vabbè, pazienza. Ok, andar bene nera. Come mi state ascoltando lì a quelle zone? Io alla grande, alla grande, Santiago 9 qualcosa e la radio alla bomba addirittura, va benissimo per me. Vai Gianni. Idem come sopra, dai, anche da lei, vabbè, siamo a due passi. Ok, vabbè, comunque Giulio, anche per il televisore prima molta gente non ne pagava, adesso ha trovato l'indipo per fargliela pagare, perché c'era gente che io conoscevo che aveva anche i soldi, stavano benissimo di famiglia e non ne pagava. Certo, ma è giusto che sia così, che la paghino tutti, perché è lì lo Stato ha ragione, io te ti do dei programmi che tu ne usufruisci, ti do un impianto, tutto ripetitorio, eccetera, eccetera, e ti faccio ricevere un programma, o meglio 10, 20, 30 o 24 ore su 24, un programma televisivo, è giusto che tu lo paghi, ci mancherebbe altro, io lo grido, questo sì. Poi il fatto che l'abbiano abbassato è già un piccolo vantaggio, perché prima si pagava di più, si pagava, adesso si paga mi sembra 90 euro, frazionato nella bolletta della luce. Questo va bene, così va bene, anche se c'è da considerare che ci sono le TV private che vivono dalla pubblicità eppure loro tassa non ne prendono. E anche questo dovrebbe cercare di rimediare lo Stato, perché? Perché la pubblicità nelle trasmissioni della RAI c'è ugualmente, e allora si sta prendendo i soldi della pubblicità e anche quelli della tassa. O una cosa o l'altra, io sono contrario anche a questo, però Renzi l'aveva abbassata a 90 euro, prima mi sembra che era 110, non ricordo bene, ma una cosa del genere. Vai Franco. Capa, sì, si conferma giù. Va, andare. E allora già, così che stai facendo? Amici, cosa sto facendo? Io qua la radio, rilassandomi un po' fra. Adesso ci devo scendere il cane giù, a fare i bisogni, poi vi guardo il film di Celentano che c'è stasera su canale 4. Su rete 4, là c'è un film di Celentano. Sì, capa, già va bene l'era. E allora giù, tu stai arrivando bene lì, dai. Sì, stai arrivando benissimo a Puglia, fra, alla grande, non c'è problema, va benissimo, la bella radio, chiara, potente, pulita, proprio come deve essere, dai. Va bene, dai, signori belli, io vi saluto per adesso, dai, me ne scendo giù, che sono già le otto esatte, per cui vi saluto e vi ringrazio per il questio che abbiamo fatto stasera, sono dalle 5, anche prima delle 5 frequenza, sicché bisogna 3 ore. A questo punto diciamo che ho fatto scaldare bene la radio, dai, ci sentiamo. Ciao Franco, grazie per essere entrato almeno a salutare stasera, va bene, ci siamo sentiti anche stamattina, Luna. Ciao Gianni, grazie a tutti e due per la chiacchierata, alle prossime, ascolto il finale e poi chiudo. Vai Franco. Ok, ciao Giulio, buonasera, ce la riascolta le truce, buon carica batterie e buon tutto. Ciao Antonio, ancora anche la parte mia, vai già. Ehi allora, ciao Giulio, buona continuazione di serata, dai buona carica quando la fai, a domani. Avanti. Ciao Giulio. Mimi, a pizzo decido. Ciao Marco, ciao, chiudo, ciao. Ciao a tutti. Ciao già, ero sempre all'ascolto, c'ero prima che ero entrato, prima che entrassi tu, poi qua stavo trafficando. Ciao anche a Franco California, che ha una modulazione splendida, splendida. Segnale 8,5 modulato, la modulazione è un bijou. E ok dai, che stai contrattando il rapporto, 5,9 qua, Marco. Qua lo smitter è a LED, è un po' tirchio, dai. Dovresti essere 9, perché con l'altro apparato t'ho visto, sei praticamente 9, dai. Ok, dai, capa, sto scendo con un'antenna, con una frustana e la piccolina, dai. Eia, va bene, dai, modulazione splendida, splendida. E allora Gianni, porta quel povero cane, dai. Io sono entrato a salutare, basta, perché tanto adesso devo fare altre cose. Va bene, che te devo dire già? Riprendi. Ehi, no, sto andando fra un po' perché adesso mi vesto, che sono ancora disabile, io sto sempre in mutandocce e a petto nudo in casa, tanto non devo dare resoconto a nessuno. Io quasi, io vabbè, c'è mamma, quindi pantaloncini, se no manco quello avrei messo. Kappa. E vabbè. Adesso metto il pantalone, una maglietta, sto scendo giù a portare a lui, poi faccio la cena, mi guardo quel film di Adriano Celentano, mi pare che sia Gran Hotel Eccelsior. 4. Gava, allora guarda anche io dai. Copritevi perché c'è un po' di freschetto, camicetta, maniche lunghe. Buonasera di nuovo a tutti. Io seguo già nel caldo, non ne ho freddo. Io vabbè, ti può venire un freddo pure, dovete già nel freddo. Noni, che qua circola sangue nelle vene. E non solo nelle vene, anche in altro. No, vabbè, io ho messo la camicia maniche lunghe, niente di... C'è un bel venticello fresco. E beh Marco, il compromesso ti piace con questo microfono? Eia, l'importante è che non ti avvicini troppo al mic. Eia. E quando è che me lo fate sentire lo scrambler? Appena lo devi abbassare qua secondo me. Ma perché è troppo forte? Eia. Quasi sta per strappare. Addirittura, sì, la madonna, c'ero a 2 il Mickey Gain del microfono ce l'ha a 2, portiamolo così, guarda, ecco qua, l'ho abbassato leggermente, meno di 2. Così è ottimo. Ottimale, non toccaci. Va bene, quindi possiamo anche sollevare la voce, ma il mio tono di voce è sempre questo, l'importante è che... Ma si assomiglia al 60? Perché non è l'MC 60? No, questo è il Barrett con l'MB più 5, l'MC 60 lasciamo uno al 430, uno al 440, uno al 780, ma non mi piace staccare il microfono per provare il radio. Guarda, da stamattina alle 8, sempre attaccato al computer con la radio attaccata, ho fatto tutti i parametri, messo i filtri larghi, messo tutto, ho fatto tutto, e siamo riusciti a trovare questo compromesso, no? E io te l'appoggio, anche io sono così, c'ho un microfono per ogni apparato. E io da sempre, microfono per ogni apparato, una radio per ogni antenna e così via, non mi piace mai stare a staccare e fare. Le tre principali sono sotto commutatore d'antenna, sotto la T230 della cable e basta. E gli altri sono le V e le U, sono con le antenne singole e così via. Va bene, quindi Marco, va bene così? Sì, basta che non ti metti a zecchirri, dai. Io dovrei essere a 4 watt adesso, 4 watt effettivi, credo. Ho messo la scala meno della metà. Insomma, ma è possibile che pompa più del K, e io a 440 lo tengo quasi a 2, 1,5 di Mickey Gain, processore inserito. Qua c'è il compressore, perché c'è il compressore inserito, il Mickey Gain della radio internamente è a 2 e il microfono è a 2, con i toni a 1,5. Dai, un attimino, vi saluto, dai, che sto andando giù a portare a taglio, che se no questo qui vi ascilla. Ci sentiamo, ragazzi, statemi bene, io non rientro perché poi mi guardo il film. Ciao! E il film di si rientro io, adesso io mi sono salito, adesso ceno, fra un po', e poi televisione, va bene. Ok, capito Marco? No, non grido io, no. Sempre questa è la mia tonalità. Si assomiglia un po', i medio bassi ci sono, i medio alti ci sono, va bene. Diciamo che ti sto ascoltando con un altro apparato, non è il 3009, quindi prendilo per buono il controllo, Claudio. Ogni tanto io cambio qua e non ho mai lo stesso apparecchio. Se ti dovessi mettere, dare controllo con, che ne so, ipotizzando 10 apparecchi diversi, ti sento in 10 modi diversi, leggermente diversi. Va bene, me l'ha dato Gianfranco col professionale, Giulio col K, quindi sono a posto, va bene così, non lo tocco, si può abbassare leggermente e già va bene. Babbo, dai, mi entra Antonello, divertiti con lui, io sto chiudendo, vai, ciao a tutti, cuore T, ciao ciao. Ciao Claudio, dai, anche Gianni non mi ha rilanciato, va bene, dai. Anche io chiudo, ciao Marco, ciao Claudio, 59 più 10 il tuo rapporto. Radio ultima. Ciao Fra, manca corto, ma lo dici, figurati. Ciao Franco lì. Ehi, anche per te, ottimo segnale, ottima radio, vai. Per l'emergenza che hai lì con quell'antennina, stai arrivando bene a questa radio. Ci sentiamo, ciao a tutti, alle prossimine, ciao ciao. Ciao anche Antonello, io chiudo perché devo fare due cosette qua, sì, fra. Sempre con quell'antenna nera che mi hai guidato tu, dai, sto pilotando con quella, perché ancora sul tetto non posso mettere niente, ce n'è qua nello sistema. Ciao a tutti, QRT per me. Ciao, ciao, fra, lascia così che già va bene. Ciao. Eia, ciao. Ciao Claudio, ciao Franco e Antonello che è entrato. Vabbè Antonello, tutto bene? Ehi, tutto bene, saluto a tutti. Ciao Franco, ciao Claudio, saluto a tutti. Buon cuoriti, buon tutto. Vabbè Marco, come va? Solita routine Antonello. Solita routine, solite commissioni, solito tutto. Vabbè, ho tolto tutta la roba del mare dalla macchina perché non ho più voglia, proprio non ho più voglia. Ma o fate le ferie? Come Antone? Certo, di andare al mare o fate le ferie? No, di andare al mare, cioè, vabbè, ferie, io è una vita che sono in ferie. Che ferie devo fare Antone? Ah, buono, lo so io, la verità non lo so. Porca miseria, aspetta, prova, ola la cipolla, ehi. Fra poco mi attacco la TV anch'io, però Celentano, mamma mia, troppi anni, lo sto dicendo, 40 anni che vedo Celentano, 45, non ne posso più, vedo se c'è qualcos'altro di più interessante. Io ce ne sono film, molto meglio di quelli, sul cielo, quanti ne vuoi bene? Ah, Cielo, ma Cielo è quel canale Osè, no? Che manda film un po'. Vagamente erotici, no? Non vagamente. No, erotici, non vagamente. Quando dice ne è buono, e poi vabbè, poi da quando ci sono 18 la verità, no? Sì. Perché si vede tutto. Sì, tutto no. Tutto non potrebbero mandarlo in chiaro, Antonello. Erotico non vuol dire porno, erotico è più soft, tipo quei film di Tinto Brass, ti ricordi? Quelli lì, ma infatti, quelli lì, Tinto Brass, eccetera, eccetera, quelli spagnoli, di tutto c'è. Eia, Antonio, tu stai usando quello? L'8570, sì. Ok. La modulazione mia è soddisfacente, passabile, otta, buona? È perfetta, ti sento benissimo. È stato veramente chiaro. Mi ha detto a me che uscivo male, quindi figurati tu. Stasera, quindi a un certo punto domani tutti a fanculo, stai da testa. Ma con quell'apparato, sai cosa aspetta, Quattro dita, mi ascolti sempre, sì. Sembra di sì, qua vado allo smitter che... No, ti volevo dire, con quell'apparecchio bisogna sempre stare attenti alle tre dita, tipo tre dita al mic. Se vai più vicino risulta troppo cupo, come dire, se vai troppo lontano comincia a abbassarsi la radio, è una rottura, non è come i baracchini, capito? Devi stare a una certa distanza, era come quando avevo il K. Dovevo stare a una certa distanza, non dovevo parlare forte se no la modulazione spingeva troppo. Ehi, che palle, guarda. No, te sai che avevo sempre uguale, lo sai che io ci avevo dato le chiappate. Quindi, a un certo punto, dopodiché vabbè, mi sono incazzato e ci ho avanti a cagare più che altro, capito? Perché cazzo, prima ho provato con lui, ho provato con l'altro, dice no, dice sempre male, e allora, aspetta qui, fa la cosa, fa il culo, me ne faccio temere a parlare, ma lui mi senti bene, infatti lui mi sentiva bene, strano. Vabbè, adesso ti sei abbassato di radio però, forse ti sei allontanato Antonè. Quello sì, quello sì. Adesso vabbè, 1, 2, 3, 4. Ehi, ti ho detto, due dita, due, fai, aspetta, due sono così, tre, ehi, due, tre, dai, intanto tu parli piano, non ti metti a zicchirvi, ma nessuno si mette a zicchirvi in realtà. Ok, non sono un po' spompato Antonè, adesso mi rilasso, eccetera. E poi novità, nulla, col progetto, niente, nulla, niente di fatto, dai. Il progetto mio adesso, non adesso, in questo momento, ma il prossimo mese mi piglio quel trasmettitore FM, perché me lo prendo, 140 euro, questo è il mio diritto, quindi me lo prendo, me lo copro e me lo piazzo. 140? Ma il solo apparecchietto è 49, intorno ai 50 euro, no? Quello che ho visto io, 15 watt. Quello è piccolino, cioè va bene, a voglia, basta, avanti. Con l'antenna già ce l'ho, la Grand Prix, se devo 20 euro da fusalo, se la biglia in culo, dopodiché basta, no? Non mi serve nient'altro. Basta solamente il computer, lanciarlo e a me lo mettono quello lì. Ehi, tanto bisognerebbe variare un po' l'hobby. Poi sei stato radioattore, ti potevi spaziare un bel di frequenze, un bel di attività diverse dalla fonia, dai. E qua bisogna... Non è che più di, non puoi fare più di tanto, dai. Me la frega sempre da 27, io lo so. Mi sento più che altro divertirmi. Che è FM, non è che qualcuno si arrabbia, no? Se trasmetto per dire un'ora al giorno, non succede nulla, no? Quindi. Aspetta, mi sto. Provola. Però come mi allontano già quattro dita sembra molto più bassa, ma è vero rispetto a così 1, 2, 3, 4, 5. Più bassa sì. Vabbè, qua c'è da fare lo square house lì, lo sai, no? Cosa della M si può migliorare, ma se non è strettamente necessario non si tocca nulla, dai. Vabbè, quello sì, quell'apparato che ho io, quello che ho dato con un piatto, l'unica cosa è quel microfono che ho preso io, la verità, va benissimo, è un bambò, non c'è bisogno di fare niente, esce con 2 watt e mezzo, l'apparato, lo lascio così ed è perfetto. Aia, aia. a Consi siamo. E cosa ci vuoi fare? Così è e così rimane. Cosa faccio? Faccio la modifica? Non saranno. Lo faccio così, c'è la B in Napoli. Non tocco nulla, no? Lo faccio così. Quindi che cosa? Il microfono, che va bene così, e uso quello per la locazione, basta. Via. Questo apparecchio del cavolo c'era tutto rotto, il mic, il Midland, sì, l'Intec 150M, o 150, vabbè, M150. C'era tutta rotta la guaina del cavo, sbriciolata, lo sai, quindi devo tenere, non devo tirare il microfono, se no ne straccia tutto. Bisogna cambiare proprio il mic, o quantomeno cambiare lo spiralatto, però... A quanto mi costa lo spiralato, gli emetto un DMC507 o roba del genere, insomma. Quanti cavi c'ha quel cavo? 4. Allora, massa, ricezione, trasmissione e capsula, microfono, va. Qual è il problema? Tengo io il cavetto, no, non c'è problema per quello. Ti metti i bu... pensamenti in testa, no? Lascia perdere, ce l'ho io quel cavo, non ti preoccupare, ce l'ho io. Sì, vediamo se ne vale la pena anche. E lo sai che si sta rompendo allo stesso modo, si è fessurato in un punto il cavo del Polmar ZX40, perché mentre prima i cordoni spiralati erano di quella plastica un po' lucida, no? Lucida o semilucida, adesso stanno facendo questa plastica opaca, di colore opaco, che come passano gli anni si crepa, soprattutto con il caldo, se si lascia l'apparecchio in macchina, piano piano si crepa, alla fine si fa brandelli. E come sempre a peggiorare vanno, vabbè, che te devo dire? Ah, io ce l'ho, io quel tipo di quel microfono, io lo sai, quindi non c'è nessun problema, non ti mettere problemi, lo sai che io ho un microfono amplificato, c'è quel tipo d'apparato, quindi... Ehi, se no l'M95 è già predisposto, si può usare anche quello. Sono sullo 00, cioè 27 075 00. Oh, l'hai mosso appena appena, vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5. No, no, sei chiaro, perfetto, come se fosse una M, tanto è uguale. Vabbè, questo non è il 3009. E vabbè, quello che sia, comunque stai scendo bene. Non che stai scendo male, no? Sai che io il 3009 ce l'ho giù, e anche con il 4000 ce l'ho giù da Giovanna, quindi figurati tu, qua ho utilizzato solamente la 87 e questo qua, ho utilizzato l'altro. Vediamo se come penso io, RF Power, no, non è questo. Carrier si chiama, boh, non lo so. Non lo so, boh, no, la verità non lo so dire. Comunque sì, c'ho il lineare che va in VU, la verità, eh. In VU2002, 150 volte in VU e U tira fuori. Cavolo all'anima, aspetta, RF Power, com'è qua? Porca miseria, forse è direttamente da qua, nemmeno, allora premo qua, talk back, no, niente, non mi ricordo qual è l'impostazione. Vabbè, piano piano già te ricordi, qual è il problema? Non costa nulla. Io me lo c'ho di là, cazzo che fai in VU. Me lo sono accorto quando ho chiesto un finale, mi hanno detto, dice, Antone, dice, guarda che quel finale va a lavorare, dice, in VU. 150 watt in AM e cose, mi ha detto, sia il V che il lume, ha detto. Ha fatto la 27. Ah, gli ho detto, allora ho fatto 13, gli ho detto. Quello non lo tengo. E infatti me lo tenuto. Cazzo. A un certo punto fa profilare sono 500 watt, insomma. E lavora in tutti i modi, M, FM, DCB, WCW, quello che è. Perché quel tipo di filare lavora in V e U, addirittura, i 422, se tu vai a controllare su internet, lavora in U e V, figurati. Eccolo qua. Andiamo a confermare. Hola, hola, hola. Ecco, adesso credo di aver dato la normale potenza. Vedi un po', Antonè. Ecco qua. 1, 2, 3, 4, 5, canale 10, 27,075. Modulazione è rimasta tale, sì? Fanno scala, sì. Fanno scala? Sì, fanno scala. Hola, hola. E vabbè, questa cosa a LED non... Questi smitter a LED fanno veramente ridere, dai. Lo so, lo so. Eia, tutto qui, dai. Prove fatte. Vediamo se mi ascolto in banda laterale. Olo, ola, ola, ola, ola. Eccolo qua. Ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola. Non riesco. Vabbè, ci vorrebbero le cuffie. Comunque, bene o male ci siamo, dai. Millo, millo, millo. Beccato. Ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. Antone, dai, io devo staccare, dai, ci sentiamo in migliori condizioni. Ok, d'accordo, alla prossima, ragazzi. Ci siamo domani, ciao Marco, buon tutto, buon tutto, alla prossima. Sì, comunque un bijou, la modulazione tua è un bijou, in FM è ottima, qua non ne parliamo. E questi apparecchi non sono fatti per tanto per l'AM quanto per quelle bande, da quei modi di emissione, dai. Va bene, dai, buona serata, buon tutto e alle prossime, Antone, ciao. Non ti preoccupare, non c'è problema. Alla faccia di chi mi ha detto che facevo schifo stasera. Evidentemente qualcuno voleva che io ne avvocassi l'apparecchio a 30 euro. O per dire 400, ma comunque sia. Sono contento di aver sentito da parte tua che esce bene, perché i bugiardi hanno la lingua corta e le orecchie lunghe come quello di coso, di Star Trek. No, vabbè, però tu non essere permaloso, cioè lo sappiamo come esce quell'apparecchio in AM. Non è chiaro e limpido come l'FM e la banda laterale, quello è appurato. Poi c'è quella posizione del tastino che io non mi ricordo mai qual è la migliore. Da una parte in una posizione è più cupo, nell'altra è più e meno cupo, capito? Solo che chi se ne ricorda più, quello era stato anche migliorato, lo sai. Quando il microfono era originale era drammatica la situazione, drammatica, usciva molto ma molto più male. È stata fatta la miglioria proposta da un radioamatore cambiando, mi pare, un condensatore e una resistenza. Ascolta, è sempre uscita così con l'apparecchio, tu già lo sai. Da più di 2 o 3 anni la cosa me l'hai dato tu. Quindi non può cambiare un apparecchio di modulazione sempre con stesso limitatore da 30 ampere di cinesi, non può essere, quindi a un certo punto non ci credo, hai capito, il discorso è quello lì, tutto lì, non per altro. Posso crederci magari dall'alto, altro limitatore, quello lì, ma siccome questo qui è alimentato direttamente con quello, sempre stato con quello, tu già lo sai anche tu. Mi ha sempre sentito un tipo di alimentatore cinese, quindi a un certo punto non vi credo, non ci credo. Il discorso è quello. Vabbè, però guarda che dipende anche dalla radio che riceve, dipende anche dall'orecchio della radio di chi riceve. Cioè, poco fa gli ho detto a Claudio in AM, cioè io gli ho dato un controllo in AM, per me era buono, ma io gli ho detto se io metto 10 apparecchi diversi qua, 10 baracchini diversi, ho detto ti sentirò in 10 modi diversi, capito? E non sono tutti uguali l'apparato in ricezione. A parte che ci vorrebbero altoparlanti professionali, non queste colonnine da 5 cm dei baracchini, Antonio, capito? Per dare un controllo buono, oppure in cuffie, però cuffie buone, cuffie no Inuit, cuffie Sennheiser, che ne so, quelle marche buone. Ma sono stato uscito con quel tipo di limitatore, io, da un anno, cazzo, con questo apparecchio qua, ho sempre agganciato. L'alimentatore era 20 ampere, con quell'apparecchio non mi hai dato tu, basta, non ho fatto altro. Quindi, poi ha detto, ma ho cambiato l'alimentatore, ha detto, vabbè, c'ha ragione, e invece no, hai capito, il discorso è quello lì. Io mi sono attaccato perché non è possibile, ho detto, questa è una presa per il culo, tutto lì. Non ho fatto altro, poi non lo so, uno si può offendere quello che vuole, ma io la penso così. Non puoi il caso dirmi dopo 3-4 mesi, quello che è, un anno, due anni, quello che è, cazzo che è cambiato tutto, non può essere, perché io ho sempre l'alimentatore da 20 ampere cinese, collegato a questo apparato qua, quello che mi hai dato tu, non sei andato mai nessuno, cioè, è stato bello quelli che mi hanno sentito prima, quindi a un certo punto mi sembra un po' più strana la cosa. E che cazzo, a un certo punto l'antenna è quella che è uno stazionale, l'ho controllato lo stazionale, c'è uno e allora cosa devo fare? Ci butto l'apparato e basta, cosa devo fare? Devo controllare gli altri. No, buttare no, vabbè, tu te la prendi molto, ma basta usare un baracchino che esca limpido, che esca bene. Io sono sempre con questi 3009 simili e nessuno si lamenta mai, quello è un HF, capito, in AM è un po'... non è perfetto, dai, non è perfetto quanto altri apparecchi, tutto lì, Antonello. HF già lo sai, questo non sbaglia, è come avere un timo di un 140 Nm, tale uguale, quindi è centrato, è perfetto, non c'ha nessuno zio, non c'ha niente, quindi è tranquillo. Uscire basso di radio, quello che vuoi, per dire che il microfono è male, quello mi è contento, però che mi si dica che sto uscendo male, no, non lo accetto. Vabbè, però che vuol dire? Anch'io se esco male, mi dicono che esco male e me ne accorgo, tendo a migliorare, non è che dico no, esco male e non lo accetto. Cerchi di migliorare, tutto lì. Quanto ne usa un bel apparecchio, ma tu baracchini che escono bene, ne hai, tipo Saturn, Tornado, tutti quelli là, ce li hai ancora? Li ho venduto in Saturn Echo io, lo sai, ho venduto 140 euro. No, lo so adesso che me l'hai detto, io non è che poi ricordo le cose, vabbè, peccato perché quelli escono limpidi, cosa vuoi di più, anche col mic originale, Antonè. E vabbè, dai, vedi tu. Insomma, non si riesce a vendere questo apparecchio di adesso, no? Guarda, quello mio, ma non lo vendo più. Ma ce la faccio, no? Non lo vendo più ormai, se la piglia in culo. Sono 600 euro, anzi no, non 600. Questa 1200 le voglio, 700-800 euro le voglio, se no si muovono a casa. Sì, fra poco chiedi il prezzo del nuovo, lo fai pagare come nuovo. Era giusto secondo me il prezzo che avevi dato tu all'inizio, tipo 500, conta che sono passati lì un po' di anni, è fuori garanzia, credo sia anche fuori produzione, quindi man mano che vanno avanti gli anni non troverai nemmeno i ricambi. Per adesso sì, ma se ne vorrà di tempo, dai. No, forse non hai capito niente, costa 1200 e passa euro, non è stato produzione, un accidente, magari è passato così, hai capito? Se tu vai su AliExpress, in quel sito costa 1200 e passa euro, 1240 per esattezza, se non ricordo male. Quindi ancora in produzione, e ce ne sono tante di quelli, non ti preoccupare, è l'unico apparato che è molto ricercato, quindi il discorso è quello lì. Poi mi danno quello che voglio io, se no l'apparato rimane qua, il discorso è quello lì. Mi ha scritto una volta uno, ne aveva 4,50, ha detto no, e 4,50 ha detto partisco, ho detto metti in fuoco, o metti sotto la macchina, gli ho detto, il discorso è quello. Però guarda che quei prezzi che tu leggi in Cina sono prezzi fuori mercato, non esiste, quelli sono prezzi folli, perché loro ci avranno, non lo so, dazi, casini diversi, non lo so, prezzo in Italia non so quanto sia di quello lì attuale, anche perché non cominci a non trovarlo più dai rivenditori. Adesso hanno fatto l'HF, quello azzurro, con il display azzurro, cioè, ne hanno fatti due, prima c'era quello che faceva HF 50 VU, adesso invece ne hanno fatti due separati, uno che sembra un 857 ma fa solo HF 50, display azzurro, e poi hanno fatto il bibanda VU, sempre display azzurro, e c'è pure quel digitale C4FM, eccetera. E vabbè Antone, se non lo vuoi dare non lo dare, ci mancherebbe, non sei obbligato, eccetera. Beh, Antone, io stacco adesso, devo fare roba e poi la TV, dai sentiamo, e non te la prendere per una modulazione, per un controllo che non, che non ti è piaciuto. Certo che me la prendo, secondo te cazzo, ma sono meglio di me, boh, e sono peggio di me, quindi a un certo punto. Comunque la valutazione è 520 euro di questa apparato qua, se ti vai a controllare 520 euro, ho controllato ieri, la verità, la valutazione è quella. Ehi Antone, dai. Ti devo lasciare, ci sentiamo alle prossime, ciao Antone, ciao, buonanotte. Ciao Marco, alle prossime, ci sentiamo, ciao.